Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 2 luglio 2015. La sanità è digitale e agli italiani piace. La digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana piace agli italiani, soprattutto nel settore della sanità. Dalla ricetta digitale che si può reiterare per le patologie croniche senza fare anticamera dal medico, fino alla cartella clinica informatizzata, il sistema sanitario nazionale offre sempre più servizi accessibili via web, magari da un semplice smartphone. La svolta, impressa a partire dal 2012, alla digitalizzazione del settore pubblico sta così dando, dopo le prime incertezze, alcuni rallentamenti e qualche perplessità iniziale degli utenti, i suoi frutti, anche in termini di risparmio, sia nei tempi di risposta, sia nel costo per l'erario. Fin qui la notizia del 2 luglio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Il progetto di digitalizzazione della pubblica amministrazione, a partire dal rilancio della posta elettronica certificata fino agli sviluppi nel settore sanitario, è l'obiettivo dei prossimi mesi del Dipartimento per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio, Paolo Donzelli, che coordina i tavoli sull'e-government. Quello che si vuole fare, si sta cercando di fare, è di superare molto rapidamente le differenze che esistono a livello territoriale, cercando di valorizzare quello che è stato fatto di molto buono in certe aree, portandolo a fattore comune su tutto il territorio. Questo vuol dire realizzare molto rapidamente delle infrastrutture abilitanti, che per noi sono il tema dell'identità digitale, ad esempio, la distribuzione della carta d'identità elettronica, magari unita con la tessera sanitaria, come strumento di identificazione e di accesso ai servizi online per il cittadino, avere delle banche dati assolutamente interoperabili, che consentono al cittadino di reperire velocemente, ma anche all'impresa di reperire velocemente i dati di propria competenza, come pure la disponibilità di un domicilio digitale, cioè la possibilità per il cittadino di indicare alla pubblica amministrazione una propria casella di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni. Si vuole abilitare tutte le amministrazioni a rendere disponibili i pagamenti online, si vuole abilitare la fatturazione elettronica delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Ci sono poi dei settori importanti come la sanità digitale. Vogliamo passare dalla ricetta cartacea alla ricetta digitale. Ricetta digitale vuol dire non solo dematerializzazione, quindi costi inferiori, e quindi è anche un miglior controllo della spesa, ma vuol dire anche servizi aggiuntivi per il cittadino. Possiamo immaginare il momento del rapporto col sistema sanitario nazionale come quando si compra un biglietto aereo. Si prenota online, si paga online, si riceve il biglietto e a quel punto c'è solamente il momento fisico della visita medica. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.